Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme sino alle 11 in diretta, insieme ai nostri esperti, pronti come sempre a leggere con noi le notizie del giorno, a rispondere alle nostre domande, ma anche a darci spunti di riflessione, consigli pratici, utili ad aiutarci ad affrontare questo periodo di isolamento. Proprio valorizzando e imparando a utilizzare e sfruttare le risorse che ciascuno di noi ha a disposizione. Questo è importante sempre ricordarlo, perché anche questo è un modo per evitare di farci sopraffare dal senso di sconforto e frustrazione che può invadere e anche condizionare i nostri pensieri e le nostre scelte. Ormai lo sappiamo che dovremmo imparare a convivere con il virus ancora per un po', e quindi bene attrezzarci adeguatamente. Per questo oggi ho pensato di parlarvi di una ricerca che mi è sembrata particolarmente interessante. Perché? Perché partendo dall'impatto psicologico delle misure restrittive è arrivata a suggerire strategie per ottenere un buon adattamento. Bene, intanto saluto la professoressa Gwendalina Graffigna, che è ordinario di psicologia dei consumi all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca che ha realizzato lo studio. Buongiorno, benvenuta professoressa. Buongiorno. Graffigna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da chiederle come sta, ma direi come stiamo noi dopo settimane in cui facciamo i conti con le misure restrittive? Beh, sicuramente è molto dura. Nel nostro studio abbiamo notato come un 33% della popolazione italiana è in uno stato ancora di allerta psicologica. E questo è un campanello d'allarme, perché innanzitutto potrebbe poi esserci dei casi anche di aggravamento sul piano di disturbo psichico, ma soprattutto perché questa allerta psicologica spesso correla con comportamenti non adattivi sul piano della prevenzione, quindi sostanzialmente non una buona aderenza alle misure di prevenzione del contagio. E chi sta peggio sono, ahimè, le donne, quindi io e Nicoletta un po' ci siamo a rischio. E sì, eccoci qua. E soprattutto la fascia più giovane, sono dai 24 anni ai 35 anni quelli più in difficoltà, anche perché spesso in una fase di ricerca lavorativa, quindi qua c'è anche poi l'impatto economico e l'incertezza che la situazione si sta configurando. D'altronde però, professoressa Graffigna, è ormai sempre più chiaro che con le misure preventive dovremo convivere ancora per un bel po'. Un gruppo di epidemiologi dell'Università di Harvard ha stimato che potrebbe essere necessario praticare, pensate, il distanziamento sociale in forma intermittente, un po' a singhiozzo, sino al 2022. Queste sono ipotesi. Quello che invece è certo è che la vostra ricerca ha messo in luce è che ci sono dei fattori che possono facilitare l'adattamento alle misure preventive. Professoressa Graffigna, quali sono? Sì, è così. C'è un fattore che in letteratura è molto noto e viene chiamato engagement, cioè la capacità delle persone di sentirsi coinvolti in prima persona nella loro salute e soprattutto nel sistema sanitario. Questo effetto è stato studiato largamente nella patologia cronica, ma noi l'abbiamo applicato anche in questa situazione di emergenza e abbiamo visto che effettivamente più le persone cambiano pelle, cambiano mentalità e si sentono i primari protagonisti nella prevenzione del contagio e soprattutto capiscono il loro ruolo nel sistema sanitario, più riescono ad essere efficaci sia sul piano psicologico di adattamento sia sul piano della aderenza alle misure preventive. Tra l'altro, professoressa Graffigna, la vostra ricerca mostra che tutto questo ha anche delle ricadute sui consumi alimentari. Assolutamente sì, diciamo che l'alimentazione è un pilastro fondamentale della nostra vita quotidiana e soprattutto della prevenzione e della gestione della salute. E quello che noi abbiamo visto è che in questo momento di emergenza sul piano psicologico, della psicologia dei consumi, ci sono dei cambiamenti. Diciamo che le scelte, quelle irrazionali, che già sempre un po' tracciamo come psicologi negli acquisti, sì, nei consumi, un po' le scelte che facciamo di pancia, professore. Professoressa Graffigna. Quelle di pancia, ecco. Quelle un po' meno logiche e ci sono ancora di più. E un dato per esempio che ci ha stupito è l'aumento al ricorso di integratori e di vitamina C proprio in questo periodo di emergenza, proprio per cercare di far fronte al rischio di salute, ma sappiamo e sono state sventate anche tante fake news su questo. nonché una maggiore preoccupazione per i prodotti originari delle zone focolaio, quindi per esempio del Cremonese. Quindi c'è questa preoccupazione che quei cibi possano portare ad una forma di contagio. Ed infine una grandissima preoccupazione per quella che è la sicurezza degli alimenti, preoccupazione che in parte è assolutamente sacrosanta, certamente che avere preoccupazione che alcuni alimenti possano portare al contagio da Covid-19, questo non è dimostrato ed è invece più irrazionale. Allora, guardiamo il futuro, ma cosa ci aspetta adesso, professoressa Graffigna, sul piano psicologico nel passaggio alla fase 2 del Covid-19? Sul piano psicologico dobbiamo essere in metafora un po' come dei maratoniti, cioè dobbiamo metterci nell'ordine di idee che la convivenza con il virus e con le misure di contenimento sarà lunga. Stiamo passando alla fase 2, forse ci sarà una fase 3, chi lo sa, forse anche una fase 4. Quindi sostanzialmente dobbiamo iniziare a vivere nel presente, non fare troppi progetti a lungo termine, perché purtroppo siamo in una situazione in cui l'incertezza non ci permette di pianificare e di pensare troppo oltre, e dall'altra parte c'è bisogno di alimentare un po' le nostre risorse, appunto anche psicologiche, di adattamento e di coinvolgimento, quello che dicevamo prima, l'engagement. Ci vorrebbe proprio un percorso strutturato di educazione e di supporto alla motivazione, al cambiamento dello stile di vita. E qui viene il bello, perché la vostra ricerca fornisce proprio consigli e indicazioni pratiche per attrezzarci a vivere queste settimane di convivenza e con le misure di contenimento. È così, diciamo che la nostra ricerca, avendo dimostrato questo fattore interveniente importante di questo elemento psicologico del coinvolgimento attivo, che appunto si chiama engagement, da lì abbiamo anche stilato un vademecum per aiutare le persone con semplicissimi consigli a diventare più adattati, più coinvolti nella gestione della loro salute. Praticamente proprio a partire dalla parola engagement, che è una parola inglese ma che devo tenere così perché è scientifica, abbiamo provato a fare un anagramma e ogni lettera ci porta una parola chiave che ci può aiutare in questa quotidianità a cambiare il nostro modo di vivere questa quarantena. La prima è la E. E come, professoressa Graffigna? Per empatia. Empatia è un concetto classico della psicologia che si lega a quella che viene chiamata l'intelligenza emotiva, cioè la capacità di capire quelli che sono i sentimenti, i vissuti, i bisogni pratici e anche emotivi delle altre persone. In buona sostanza vuol dire imparare a mettersi nei panni degli altri. E oggi è un elemento importante perché vuol dire diventare un po' più altruisti e un po' meno egoisti sia nella gestione della salute. Le misure di contenimento sono importanti non solo perché ci risparmiano al contagio, ma soprattutto perché fanno in modo che noi non aggraviamo il rischio di contagio per la comunità e soprattutto non pesiamo ulteriormente sul sistema sanitario e sui nostri eroi, che sono gli operatori sanitari e che ci stanno gestendo e stanno provando a combattere questo contagio. E quindi più che mai dobbiamo essere empatici, altruisti in questo momento. Però possiamo suggerire anche, professoressa Graffigna, e questo è un po' un inizio di un percorso che vogliamo fare insieme anche nelle prossime settimane, un esercizio per sviluppare, per indossare e sentirci proprio più empatici, insomma far sì che non rimanga solo una parola. Sì, beh, un semplicissimo esercizio posso dare, che è quello di cambiare prospettiva. Allora, in questi momenti penso che le emozioni negative ci siano tante e ci siano spesso. Non parliamo assolutamente di chi è in una situazione di emergenza, di lutto, di gravità, quello altro che emozioni negative, è un dramma e c'è bisogno di ben altro, di aiuto. Ma diciamo che però la noia, piuttosto che la frustrazione, l'insofferenza, sono emozioni negative che oggi possiamo provare anche nelle nostre case. Siamo costretti alla convivenza con i nostri parenti, vicini, mariti, mogli, eccetera, e insomma un po' di sofferenza già ci può essere. Ecco, l'esercizio è: cambiamo prospettiva, mettiamoci appunto nei panni dell'altro. La prima emozione, un po' per esempio di rabbia, piuttosto che di noia, piuttosto che appunto di insofferenza verso il prossimo, può essere, scegliete voi, il vicino di casa piuttosto che il vostro figlio, piuttosto che il vostro compagno, e provare, prima di reagire negativamente, a capire bene quali sono i motivi e le sofferenze di quella persona, perché anche lui avrà delle emozioni negative, che l'hanno portato a reagire così. Proviamo a capirle, ci mettiamo da quella prospettiva, respiriamo un po' e quindi tratteniamo la nostra reazione negativa. Sarà più facile avere una risposta molto più adattiva. Anche nella relazione tutto migliorerà. Grazie professoressa Grafigna, ci alleneremo e empatia e ci sentiamo la prossima settimana venerdì per un altro suggerimento con la E che inizierà con la N. Professoressa, grazie per essere stata con noi, buona giornata e complimenti. Grazie mille, a presto, buona giornata. Beh, la professoressa Grafigna ci ha raccontato che i nostri consumi si sono modificati, alcuni alimenti, alcuni prodotti sono andati letteralmente a ruba, penso al lievito di birra ma anche alla farina, improvvisamente siamo diventati tutti pizzaioli, allora per non scontentare nessuno, che come si dice è rimasta al palo, abbiamo in linea il nostro tecnologo alimentare, esperto in nutrizione, il dottor Giorgio Donegani, una colonna della bufala in tavola. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Donegani, facciamo di necessità virtù. Qualcosa manca, beh, si sostituisce. Beh, sì, nei limiti del possibile, certo, ed è possibile con il lievito di birra, con qualche limite, evidentemente. Nel senso che il lievito di birra ormai è demonizzato, fino a poco tempo fa sembrava che nessuno lo tollerasse più, è diventato veramente merce rara. E suggerisco magari di non andare solo al supermercato a cercarlo, ma anche nel posto più normale che sono le panetterie, dove lo usano quotidianamente e in genere sono ben disposti a cederne un pochino. Detto questo, in casa noi possiamo sostituirlo in tre modi. Il primo attenzione, è quello... si fermi qui, dottor Donegani, sì. Tre modi. Tre indicazioni del dottor Donegani, se stasera ho sentito anche Ale Milan, volete fare la pizza e non avete lievito di birra in casa, restate con noi perché il dottor Donegani ci dice cosa fare e come. A tra poco. Obiettivo salute. Siamo tornati insieme, in linea con noi il dottor Giorgio Donegani. Dottor Donegani, ci ha promesso tre allegre sostituzioni, come si dice, quando il panetto di lievito di birra non c'è o manca, che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa è pensare al bicarbonato, che poi non è altro che un po' il lievito chimico che si usa per le torte. Non è così facile ottenere buoni risultati, però c'è il tempo per fare delle prove e trovare i dosaggi giusti. Pensate comunque che in Irlanda, per esempio, il soda bread, appunto il pane fatto col lievito di birra, con il bicarbonato invece del lievito di birra, è in uso da sempre. Il segreto magari sta nell'impastare bene, in modo che il bicarbonato si diffonda bene nell'impasto, e nell'usare non soltanto acqua, altrimenti diventa, insomma, non viene bene, ma anche un latticello fatto miscelando yogurt e un'uguale quantità di latte. Poi l'altra cosa che anche qui può essere l'idea bella di sperimentarla è quella della birra proprio, cioè nella birra quella fermentata in bottiglia, non filtrata e non pastorizzata, noi troviamo dei lieviti che sono gli stessi che usiamo. Provare a impastare con la birra di questo tipo e tenere l'impasto per favorire la lievitazione in ambiente tiepido può dare dei risultati che al gusto sono un po' diversi, perché la birra si sente comunque gradevoli. E infine la terza cosa, il lievito madre, è quello che dà i risultati migliori, ma ci vuole tanta tanta pazienza, perché lì basta soltanto farina e acqua e poi una decina di giorni, perché di volta in volta, mescolando farina, lasciandola riposare, rimescolandola, aggiungendo un po' d'acqua, così si arriva a un lievito naturale che poi può effettivamente dare ottimi risultati. Dottor Donegani, grazie, torni presto a trovarci perché dobbiamo con lei tornare a fare la spesa, farla in modo intelligente, mettere le cose per bene in dispensa, soprattutto gestire una buona organizzazione in frigorifero, insomma abbiamo bisogno che lei torni, intanto le faremo sapere dei nostri esperimenti, le auguro una buona giornata, grazie. Anche a voi, grazie. grazie, salve. Beh, e infatti, insomma, diciamocelo, uno degli effetti di questo isolamento è proprio il ritorno al piacere della cucina, tagliare, affettare, mettere, come si dice, le mani in pasta, che tra l'altro non solo aiuta a trascorrere il tempo, a preparare buoni margaritari, ma proprio come tutte le attività manuali piace anche al nostro cervello. Bene, adesso ci occupiamo anche di questo organo meraviglioso, affascinante e misterioso. Lo facciamo oggi col professor Piero Barbanti, un grandissimo esperto, amico della nostra trasmissione, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno, bentrovata. Professore, che buone notizie ci porta? C'è una ricerca fresca che ci offre spunti molto interessanti per mantenere il nostro cervello giovane e sano. Sì, comincio un po' da lontano. La buona notizia è che questi giorni così strani, tra l'altro non si riesce a capire se il tempo passi più lentamente o più velocemente, secondo me passa più velocemente, ha riportato il cervello un po' indietro nel tempo, e cioè ci ha fatto rallentare un po', e in generale, questo può sembrare strano, gli insonni stanno dormendo un po' meno peggio, e cioè essendo calato la nevrosi dell'alzarsi presto, molti fanno il telelavoro, non facendo più sport serale, che è una cattiva abitudine di molte persone, non ricorrendo magari ad eccessi alcolici in cena con amici, il soggetto si è disfatto del cosiddetto social jet lag e, come si dice a Roma, io non sono romano, il cervello riprende a parlare come mangia e quindi ha ripreso un suo ritmo migliore. Ora, noi tutti sappiamo che dormire fa bene, ma a che cosa fa bene? Sicuramente ci sentiamo più in forma, siamo concentrati, chi dorme bene durante il giorno mangia di meno, ma c'è uno studio molto importante che dimostra che dormire fa bene, perché dimostra che il non dormire può far molto male. Magari il dettaglio può sembrare così un po' nebuloso, ma in realtà è molto importante. Questi studiosi americani hanno preso dei volontari sani e hanno detto loro di non dormire per 36 ore. Poi, con un regolare consenso informato, hanno prelevato il liquor, che è quel liquido che bagna il cervello e il midollo spinale, con una puntura lombare. E che cosa si sono accorti? Che i soggetti che volontariamente facevano la notte in bianco, stavano 36 ore senza dormire, avevano in questo liquor una alta quantità di una proteina, chiamiamola pericolosa, la tau fosforilata, e cioè quella proteina che poi si accumula, si piega male ed è una delle basi dell'Alzheimer. Cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Vuol dire che il rapporto tra il sonno e invecchiamento cerebrale è un rapporto stretto, che il sonno va rispettato e venerato, e periodi come questi, che ci fanno allentare un po' i nostri ritmi, ci devono fare riscoprire l'importanza di un sonno profondo. Il terzo elemento è, se io non dormo bene, parlo col medico, meglio una pastiglina data dal medico che fare tante notti in bianco col cervello che rumina, perché non solo quel giorno sto male, ma il neurone lavora troppo e libera questa proteina tau fosforilata che nella testa è meglio se non c'è. Professor Barbanti, quindi cerchiamo di riposare bene e in questi giorni di isolamento riscopriamo il piacere della pennichella, se è breve? Senza professore, dubbio. Ci può fare bene? Senza dubbio, la pennichella è quella cosa che fa benissimo a tutti, meno che agli insonni, ma perché è stato dimostrato che un microsonno, vuol dire addirittura 3-5 minuti, è in grado di dare un beneficio, cioè un azzeramento del nostro cortisolo per 3-4 ore. Quindi utilizziamo questo tempo strano, è un tempo senza orologio, anche perché le città non sono rumorose, non ci svegliano tanti rumori, per lasciare parlare al cervello la sua lingua, quel ritmo un po' sordo, a volte ci sentiamo anche un po' intontiti, siamo semplicemente meno stressati. Non dico, perché era un periodo così drammatico per le immagini, per i nostri carichi, per chi ha perso persone, ma il cervello sta tornando nella sua sintonia originale. Seguiamola e dormiamo quando abbiamo voglia, è una iniezione fondamentale di salute per la nostra testa. Professor Santi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, devo dire buon sonno. È questo che dobbiamo augurare alle persone che abbiamo, a tutte comunque. Grazie professore. A voi. E allora noi chiudiamo con l'invito a tutti voi di frequentare assiduamente le pagine di Obiettivo Salute, la pagina Facebook del programma dove... E quindi andate sulla pagina di Obiettivo Salute, tanti esperti, tanti consigli che ci aiutano a organizzare la nostra quotidianità. Tra i nostri esperti c'è Viviana Ghizzardi, dottore in scienze motorie. Viviana, ciao. Presente, ciao. Presentissima. Abbiamo parlato di sonno e con te invece sì. Ci risvegliamo perché risvegliamo i nostri muscoli con gli esercizi che tu posti sulle nostre pagine, esercizi un po' indicati per tutta la famiglia. Sì, alla fine sì, cioè, nel senso che in questo momento in cui siamo un po' tutti fermi, quegli esercizi possono essere fatti veramente da tutti, anzi può essere un momento anche carino per fare una cosa insieme un po' diversa. Viviana, noi oggi però con te vogliamo dare un consiglio a quelle persone che in occasione magari di Pasqua hanno fatto le pulizie di Pasqua o al contrario sono rimasti troppo spiaggiati sul divano e adesso si trovano un pochino incriccati, sai quando dici la classica espressione sono tutto rotto, ecco ci dai una mano perché poi posterai degli esercizi proprio per questa tipologia di persone, Viviana. Sì, perché in effetti, come ben ci siamo detti altre volte, no? Fare troppo alla fine non fa bene e da quello che si vede in giro siamo stati tutti presi dal sacro fuoco delle pulizie e del riordino. Però anche stare lì così fermi, totalmente inattivi sul divano, in delle posture un po' balorde, altrettanto bene sì, non la fa. Postura e da allora, divano? Divanizzati, allora uno come fa a scoprire se tipo ha veramente bisogno di muoversi? Perché poi meno fai, più stai di fermo, magari i dolori li senti meno, te ne accorgi meno, poi però la prima volta che ti rimetti in movimento sono dolori veri. Certo. Allora io di solito in questi giorni sto dicendo ma fatti dei mini test per capire come sei messo, nel senso per esempio se io mi piego in avanti e cerco di andare con le mani verso il pavimento, verso le punte dei piedi, cosa sento? Cioè, se mi sento tutto rigido, se anche quando la mattina mi devo mettere i calzini mi sembra un'impresa titanica, vuol dire che il mio corpo si sta irrigidendo e spesso si irrigidisce perché passo un sacco di ore seduto. Allora è proprio il momento in cui uno dice no, devo fare un po' di allungamento perché sennò quella rigidità lì poi a un certo punto sfocerà in un mal di schiena. Così come per esempio le signore possono accorgersi tipo se si devono allacciare il reggiseno e stanno facendo fatica, oppure banalissimamente, hai presente la posizione a braccia conserte davanti, provare a farla dietro e vedere se la mano riesce a prendere il gomito opposto, oppure se tutta la regione del petto e delle spalle grida vendetta, perché anche lì allora vuol dire che abbiamo accumulato della tensione e in quella zona però lì potrebbe anche essere di ansia. Però noi abbiamo la soluzione, Viviana, la bella sempre. Notizia... La bella notizia è che ci sono gli esercizi di Viviana Ghizzardi che ci aiutano a diventare dei giunchi, eh? E così ti piace? Quindi piace esercizi moltissimo. Esercizi di Viviana Ghizzardi sulle pagine di Obiettivo Salute insieme a tanti consigli, le favole di Anna Lavatelli, ci sono i consigli anche di Filippo Ongaro, ieri ci siamo scatenati nelle coreografie di Beatrice Carbone, ballerina solista, insomma ci stiamo dando da fare. Ringrazio Carmelo, Lauricelli, in regia, la parte tecnica, Miriam Lucchetti in assistenza, come sempre Laura Vanossi in redazione, vi do appuntamento a domani, c'è Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola e poi ritorniamo insieme alle 10:30 con Obiettivo Salute insieme a voi lunedì alle 10:30. Buona giornata, buon weekend!